processo e una cosa sono gli output. Per quanto riguarda il processo, avevamo già avuto modo, come Extinction Rebellion, di apprezzare, perché a livello di strutturazione, a livello di informazione data alle persone e a livello di possibilità di partecipare, quindi di condizioni ricreate affinché le persone potessero partecipare al meglio, non abbiamo niente da dire. È ineccepibile dal punto di vista della struttura e del processo. L'Assemblea Cittadina di Bologna è sicuramente collocabile come uno dei migliori processi realizzati all'interno di quello che è l'esistente. Quello che però purtroppo c'è da riscontrare, era un sospetto che in realtà nutrivamo già dall'inizio, era invece la parte che riguardava i risultati, che è la parte che più ci interessa, perché sebbene il processo sia stato organizzato molto bene, tant'è che di 188 persone sono arrivate alla fine del processo, stiamo parlando di un tasso di partecipazione che è enorme e che restituisce l'immagine della cittadinanza davvero attiva e impegnata, che se messa in condizione di partecipare lo fa. Quello che purtroppo c'è da notare è che questo è un ennesimo processo che frustra la cittadinanza, perché sebbene sui giornali viene sbandierato che il Consiglio Comunale abbia accolto con la delibera le raccomandazioni dell'Assemblea Cittadina, vorrei già far notare che ci sono 6 accettate e 18 proposte di raccomandazioni parzialmente accettate, e tra quelle accettate sono sostanzialmente tutte quelle che hanno verbi come sostenere, sensibilizzare, quindi verbi che rimandano delle azioni di promozione e non delle azioni concrete. Per quanto riguarda la parte degli edifici, per esempio, si accetta il fatto della raccomandazione dell'Assemblea Cittadina di incentivare quanto più possibile il rifacimento degli edifici. Il Consiglio Comunale risponde: ottimo, siamo molto allineati, però il Comune di Bologna stanzia delle risorse per quanto riguarda il sismico e non per quanto riguarda la transizione degli edifici, perché questa, soprattutto per quelli nuovi, già è prevista, cioè gli edifici nuovi sono già costruiti a norma, quindi l'esistente, diciamo, viene messo da parte. Questa è una delle tante cose che salta all'occhio. E poi chiaramente c'è l'elefante nella stanza, del passante di mezzo. Quello che noi notiamo è che dell'Assemblea Cittadina sono state recepite alcune parti e non il tutto, in linea, diciamo, con un'incomprensione del fenomeno che cercavamo di sollevare, cioè quello che è l'emergenza climatica ecologica. È un fenomeno che ha ricadute su ogni ambito dell'agire umano e su ogni ambito della città. Se fa un cherry picking tra le proposte, valutando quelle che espongono meno politicamente il decisore e l'amministratore, va da sé che viene restituito un quadro parziale della complessità che invece è uscita e risultata dal processo di partecipazione della cittadinanza. Cittadini e cittadine che hanno partecipato hanno dimostrato di avere molto più coraggio dell'amministrazione, che invece si trincerà dietro dei bei discorsi, ma poi a livello di azioni concrete manca il coraggio. Nel passaggio tra le proposte dell'Assemblea e il recepimento in Consiglio Comunale, alcune misure sono state un po' annacquate? Sì, diluite con retorica che a tratti risultava anche paternalista. Per esempio, voglio riprendere l'esempio della valutazione di impatto sanitaria. Quello che si legge nella delibera è che la valutazione di impatto sanitario tecnicamente, così come proposta, è difficile da realizzare, e questo l'abbiamo sentito anche in questi giorni sulle varie interviste fatte ai giornali, per una questione tecnica. Quello che aveva sollevato l'Assemblea Cittadina era una questione politica che non è stata accolta, perché nella delibera di consiglio si legge che la valutazione di impatto sanitario è una valutazione che verrà tenuta in considerazione per le future infrastrutture. Beh, questo non è però il senso politico che sollevava l'Assemblea Cittadina. L'Assemblea Cittadina stava dicendo: c'è una grande opera alle porte di Bologna che è stata finanziata, che però è in netto contrasto con tutti gli obiettivi, sia di riduzione di emissione e sia di riduzione degli inquinanti. Siccome siamo una città che si vanta di essere database, guardiamo per esempio all'elaborazione del gemello digitale, facciamo uscire i dati dell'impatto sanitario dell'opera, ma dell'impatto impatto che già ha avuto nello scorso decennio, per cercare di capire se a livello di salute è conveniente o meno allargare il passante. Questa è la contraddizione, quello che non si è voluto capire, quello che chiedeva l'Assemblea cittadina in generale non erano dei tecnicismi, ma erano dei punti politici. Annacquarli significa ridimensionare l'emergenza climatica ed ecologica, annacquarli significa poi dopo togliere credito alle parole che vengono sventolate o che sono state sventolate nell'ultimo mese con gli sforamenti alle emissioni di agenti inquinanti. Da un lato si dice che viviamo nella pianura padana perché le emissioni uccidono, dall'altro si risponde a dei cittadini che legittimamente chiedono quanto dannosa già è un'opera per la salute umana. Queste due cose, diciamo, si contraddicono tra loro, e questo è il punto che abbiamo sempre sollevato e che l'Assemblea cittadina ha risollevato. In questo senso questo esperimento non è vano, perché nella popolazione, nella cittadinanza, c'è una volontà effettiva di transitare verso modelli sostenibili, sia di vita che economici.